Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora, eccoci per chi si aggrega alle 7:18 minuti. Noi siamo in onda dalle 6:30, ricordatevelo. Siamo pronti però ora a leggere i giornali. Vi ricordo anche gli ospiti politici di oggi alle 8:15. Tra poco meno di un'ora avremo Antonio Ingroia, il candidato premier per Rivoluzione Civile. Poi dalle 8:30 alle 9 avremo Roberto Maroni, il segretario federale della Lega, per parlare ovviamente soprattutto, ma non solo, dell'accordo PDL-Lega. Questo il menù per gli ospiti più avanti, ma andando con ordine è tempo di leggere cosa ci propongono i giornali in edicola. In questo martedì 8 gennaio, intanto la solita carrellata di titoli. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che apre con una notizia non certo positiva, letta così: le tasse e gli immobili, casa nelle casse del fisco il 60% dell'affitto. Pensate, il 60% dell'affitto. Ci sono città come Genova in cui si arriva al 75% di tasse dell'affitto. L'affitto finisce per il 75% in tasse. Corriere della Sera, il nuovo patto PDL Lega. Repubblica, Bersani, vincerò e sarò premier. Accordo fatto tra PDL e Maroni. La Stampa, Lega PDL, accordo per il Nord. Libero, quanto vale Forza Nord. Il Secolo XIX, il patto PDL Lega riapre la partita. Il manifesto lo dipinge così: il cerchio tragico. Nella foto ci sono Berlusconi e Maroni. Il Messaggero: Berlusconi Lega, il patto del Nord. Dunque, questa è la notizia politica del giorno. L'Unità PDL Lega da tragedia a farsa. Mentre il Fatto Quotidiano insiste in questa campagna contro gli impresentabili, come vengono definiti, ora anche Bersani scopre gli impresentabili del PD. Il giornale: i ricchi all'inferno se vince la sinistra, la promessa di Vendola. Mentre Avvenire titola L'oblio di Dio genera violenza, è il discorso al corpo diplomatico del Papa Benedetto XVI. Voglio iniziare da alcune notizie giudiziarie. Le sentenze in Italia: prima sentenza, gli scontri a Roma, ve li ricordate? Quando devastarono Roma, era il 15 ottobre del 2011. Ci fu anche quello che divenne celebre come Erpelliccia, fu immortalato mentre lanciava un estintore contro un blindato dei carabinieri in fiamme. Ebbene, sono arrivate le sentenze, indignati, così si definivano, no? Gli indignati. 6 anni ai teppisti per l'assalto al blindato. Leggo per esempio La Stampa, che dedica 2 pagine a questo. Guido Ruotolo: 6 anni di carcere per i 6 manifestanti che il 15 ottobre 2011 misero la capitale a ferro e fuoco. 6 anni per gli autori dell'assalto al blindato dei carabinieri in piazza San Giovanni in Laterano. Fu distrutto, incendiato. Il suo autista riuscì a mettersi in salvo miracolosamente. E tra l'altro ci sono anche i profili di chi sono questi 6 manifestanti. Sono tutti 6 ultras del Teramo, così vengono identificati almeno sulla stampa. C'è anche il candidato politico, è una pagina a firma Grazia Longo, a pagina 9. Il candidato politico trentenne, il manifestante più noto, ultra abruzzese, militante di Azione Antifascista Teramo, primo dei non eletti alle ultime elezioni comunali nelle liste di Rifondazione Comunista Teramo. A proposito degli scontri, li ritiene causati da una tensione sociale manifestatasi nei mesi precedenti al 15 ottobre, sfociata in scontri di piazza. Poi c'è il disoccupato Massimiliano Zossolo, che dice: ero incensurato e ho perso il lavoro per questa vicenda. C'è il giardiniere Mauro Gentile, 37 anni, una moglie, un passato da giardiniere, per la verità, nei villaggi turistici. Ha perso anche lui il lavoro lo scorso aprile quando è stato arrestato. Il carrozziere, che dice: sono stato riconosciuto solo per la mano, la sua fedina penale prima della condanna risultava pulita. C'è il tecnico, così definito, di origine svizzera, nato a Baden, Mirko Tomassetti, vive a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. Anche lui ha perso un'occupazione dopo l'arresto. mentre il marmista Marco Moscardelli, 33 anni, ha dichiarato: manifestavo contro un sistema ingiusto. 6 anni di carcere, anche il Messaggero dedica una pagina all'assalto al blindato dei carabinieri, 6 anni di carcere agli indignados, come si chiamano anche in Spagna. Il Manifesto invece la giudica una condanna pesante, condanna che viene definita abnorme, addirittura condannati a 6 anni. Il Manifesto mette la notizia anche in prima pagina: pena abnorme ai manifestanti, 6 anni per gli scontri di Roma. A proposito di sentenze, invece, sul Corriere della Sera un'altra sentenza, ben diversa, un altro caso ovviamente. Luigi Ferrarella racconta, pagina 23, forse una vicenda meno nota, ma nel febbraio 2009 ci furono delle proteste, degli scontri all'interno del centro di identificazione e espulsione di Lampedusa, che innescarono una serie di altre manifestazioni, rivolte da parte di immigrati irregolari che venivano detenuti in questo nei vari centri d'Italia, e che hanno dato vita appunto a delle proteste. Una di queste riguardava il centro di identificazione e espulsione di Isola Capo Rizzuto, dove erano trattenuti in attesa di allontanamento. Ebbene, hanno passato una settimana sui tetti, 3 clandestini, lanciando sulla polizia calcinacci, rubinetti, grate, suppellettili. Sono 3 cittadini stranieri irregolari che dal 9 al 15 ottobre 2012 diedero vita a questa rivolta nel centro di identificazione e espulsione di Isola Capo Rizzuto, sono stati assolti. I clandestini della rivolta assolti per legittima difesa. Questo è il titolo. Il giudice ha scritto nella motivazione: le condizioni del centro sono un'offesa alla dignità della persona e alla libertà personale. Dunque sono stati costretti dalla necessità di difendere i loro diritti contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta. E siccome la loro difesa è stata proporzionata all'offesa, vanno non condannati a 1 anno 8 mesi, come chiedeva il PM, ma assolti per legittima difesa. Questa è la motivazione con il quale il Tribunale di Crotone ha assolto un tunisino, un algerino e un marocchino che erano difesi dagli avvocati Natele De Meco, Eugenio Naccarato e Giuseppe Malena. Così racconta Luigi Ferrarella. Dunque, assolti i clandestini della rivolta per legittima difesa. Erano a capo di questa guerriglia con la polizia che durò 7 giorni. Racconta Ferrarella. Volete un'altra sentenza? E qui entriamo nella giustizia pazza. Prima pagina del Secolo XIX, che definisce mala giustizia con un eufemismo. A Genova la morte è uguale per tutti, racconta Marco Grasso in prima pagina del Secolo. Alla fine, per ripianare ogni controversia, c'è voluta quella che il principe Antonio de Curtis, cioè Totò, chiamava la legge della livella. Poesia indimenticabile che ricorda agli uomini che la morte prima o poi arriva per tutti, rende davvero tutti uguali, il ricco e il povero, il nobile marchese, l'umile nel turbino. In questo caso il reo e la vittima, passati a miglior vita, prima di veder finire l'indagine che li riguardava, durata 10 anni. Sono i protagonisti di una storia, un pizzaiolo e il suo fornitore. Il primo non paga, lamenta l'altro, che a sua volta non naviga in buone acque, insomma vicende che possono riguardare molti italiani, solo che i fatti accadono nel 2003. La giustizia lentamente, si perdono i faldoni, si recuperano i fascicoli, si rinvia un'udienza, c'è una notifica che non arriva, insomma cose classiche. Alla fine viene convocata la prima udienza per stamani, finalmente. Piccolo particolare, le due parti in causa sono entrambe morte. 10 anni per un processo, ma i protagonisti sono morti. Era un fascicolo dimenticato che riguardava l'estorsione a un pizzaiolo, prima udienza fissata per stamani, ricorda il Secolo XIX, ma ormai è tardi. Trovate questa storia di incredibile, come dire, mancanza di livellamento, visto che si è parlato di livella, tra la giustizia e quello che accade nella vita reale o nella morte reale di due protagonisti. In prima pagina del Secolo XIX, noi ci fermiamo qualche minuto. E allora le 7:31 minuti, continuiamo la lettura dei giornali. La notizia politica del giorno su cui aprono molti quotidiani sicuramente è quella del patto siglato tra PDL e Lega. Patto che potrebbe essere già definito dai giornali forse il patto della Guardiola. Perché sapete che c'è anche questa consuetudine quando si firmano dei patti politici di darli, non so, c'è stato il patto della crostata, il patto della Guardiola. Perché? Lo racconta il Corriere della Sera, questo è un po' un retroscena, quasi curioso, di colore, lo racconta Marco Cremonesi. Quel patto scritto nella Guardiola di Arcore, nella casa di Silvio Berlusconi, notaio di tali patti è sempre stato lui, Roberto Calderoli. Perché? Perché ogni tanto lasciava il salone dove era in corso la madre di tutte le trattative per andare alla Guardiola di Arcore. L'ha fatto 1, 2, 3 volte, al che ovviamente è nata questa curiosità. Non ci sono molte indiscrezioni, ma il fatto è questo, raccontato da qualche esponente del PDL: ad Arcore non c'erano più computer disponibili di cui Berlusconi conoscesse la password. I dipendenti, allora nel cuore della notte, erano tutti a casa loro. Gli unici ancora al lavoro erano appunto i dipendenti della Guardiola, quelli della prima accoglienza. E allora è al loro computer che Calderoli andava ogni tanto per mettere a punto il testo che veniva prima trascritto ma a mano, e poi ogni tanto Calderoli andava a scriverlo al computer, nell'unico computer disponibile nella Guardiola di Arcore. Ecco, potrebbe essere definito il patto della Guardiola. Colore a parte, c'è l'aspetto politico. Maroni: senza di loro era sconfitta certa. Questo racconta il titolo del Corriere della Sera con il pezzo più importante di Marco Cremonesi. Perché? Perché la base della Lega sicuramente qualche protesta la fa. Infatti lo stesso Libero attacca così: Maroni fa l'accordo, la base non ci sta. Bobo annuncia la nuova alleanza col Popolo della Libertà, il Popolo del Carroccio mugugna, il rinnovamento è già finito. Ci sono però anche dei difensori, Tosi per esempio, che difende la scelta, il patto ci favorisce. C'è un'intervista anche al sindaco di Varese Fontana in un giornale che dice la Lombardia val bene questo accordo. C'è chi si smarca, come Gentilini, storico sindaco di Treviso, che è intervistato sempre da Libero, dice: se torniamo con Berlusconi sono pronto a lasciare il partito. Diciamo che però l'aspetto, al di là dell'aspetto politico, dei mugugni, ricordo che alle 8:30 avremo ospite Roberto Maroni per parlare di questa cosa, c'è l'aspetto più interessante, quello su cui si concentra il giornale, cioè il patto che prevederebbe che al nord venissero lasciate il 75% delle tasse. La Lega incassa la regola del 75%, questo è il titolo della Stampa, pagina 4, un articolo di Roberto Giovannini. In realtà ci sono soprattutto più che altro critiche sui giornali per quello che viene annunciato come una sorta di slogan poi poco fattibile. Per esempio Dino Pesole sul Sole 24 Ore, pagina 12, dal titolo "Fisco padano, i conti non tornano", scrive: è il vecchio cavallo di battaglia della Lega che richiama la versione originaria del federalismo fiscale in salsa padana. La sostanza di proposta da Maroni è che la realizzazione della macro regione del nord dovrà corrispondere pari potestà su buona parte del gettito ricavato dalle imposte. Con quel che si ricaverà dal 75% delle tasse che resteranno al nord, aboliremo l'IRAP, interverremo sull'IMU, sui redditi bassi e aboliremo il bollo auto. È la versione più integrale del vocabolario leghista, certo una tu da spendere in campagna elettorale, l'ennesimo capitolo della lunga storia tutta italiana partita 11 anni fa con la modifica costituzionale voluta dal centro-sinistra. Tecnicamente però non è chiaro come dovrebbe avvenire l'attribuzione di tale ingente mole di risorse alla responsabilità esclusiva di una regione, fermo restando che l'IRAP garantisce un gettito di 38,5 miliardi che va a coprire per il 40% la spesa sanitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto all'IMU, che certo è da rivedere, occorrerebbe precisare come si intende sostituire i 24 miliardi garantiti dall'imposta. Insomma, fuori dai proclami, di certo occorre intervenire su un sistema decisamente asimmetrico che non governa le capacità di spesa delle autonomie locali. Così Dino Pesole. Anche Dario Di Vico, nel suo articolo in prima pagina del Corriere della Sera, poi continua a pagina 5, racconta: tasse, piccole imprese, identità, ecco la sfida per conquistare il nord. e si punta proprio sulle conseguenze di finanza pubblica, ma scrive Di Vico: prima di ragionare sulle conseguenze di finanza pubblica sarà bene capire la pile elettorale della proposta Maroni. È chiaro che l'IRAP è la tassa più odiata da parte di quegli artigiani e commercianti che hanno via via abbandonato il centrodestra, rivolgendosi per lo più verso l'astensione e in parte minoritaria verso Grillo. La verità è che il PD, pur ampiamente in testa nei sondaggi, non sembra essere riuscito a pescare consensi nel campo del centrodestra. Racconta e proprio si concentra Dario Di Vico su quello che sono su quella che è la parola d'ordine della macro regione fiscale, con il 75% delle entrate trattenute nella regione, ma chissà se è davvero un qualcosa di fattibile. Nel retroscena di Repubblica a firma Rodolfo Sala, pagina 7, Bobo sigla, restano i dissensi, il Pirellone, ultima chance, se vinco lascio la segreteria. Racconta Repubblica la base in rivolta, i veneti protestano, così perdiamo voti, ma racconta sempre Repubblica: è l'ultima chance, il va o la spacca, il o la va o la spacca di Maroni, che ne è perfettamente consapevole, come ha spiegato l'altra notte a Berlusconi, straconvinto che con lui in campo il centrodestra prenderà più voti, e un Maroni pronto, racconta Repubblica, a sfidare anche una base magari arrabbiata, ma deciso a poter spiegare i perché di questo, dei vantaggi di questo accordo per la Lega. Intanto prosegue la questione dell'inchiesta, appunto, di cui chiederemo conto anche allo stesso Maroni. Inchiesta che è stata svelata da Repubblica 3 giorni fa sui presunti utilizzi poco ortodossi di alcuni fondi del Senato leghista per spese personali per alcuni senatori. Per la verità, ieri già Maroni ha definito una bufala questa inchiesta. Repubblica oggi insiste: fondi del Senato Calderoli e Bricolo andranno dai PM come teste convocati, dovranno testimoniare sulle uscite private. Chi è indagato per il momento è Stiffoni, tesoriere, indagato per i soldi alla segretaria. E tra l'altro il Fatto Quotidiano oggi dedica pagina 2 e 3 a questa vicenda, e nell'articolo del Fatto Quotidiano si fanno anche le cifre. Scrivono per la precisione Marco Lillo e Davide Vecchi sotto il titolo La vendetta di Roma ladrona, così Stiffoni ha denunciato i suoi. È stato il senatore del Carroccio accusato di peculato, si difende attaccando: se devo essere indagato lo deve essere anche il capogruppo Bricolo. Ci sono, secondo il Fatto Quotidiano, 367.000 euro in cerca d'autore nell'inchiesta sui fondi della Lega Nord al Senato. Sono i soldi finiti sui conti di Manuela Maria Concetta Privitera, la segretaria del tesoriere del gruppo, il senatore Stiffoni, che per la verità, scrive il Fatto Quotidiano, è l'unica indagata, cioè è indagata in questo momento insieme anche a Stiffoni, che però in un'indagine che promette, secondo il Fatto, sviluppi clamorosi, nell'interrogatorio del 27 novembre la segretaria di Stiffoni, da accusata, si è fatta accusatrice, dicendo appunto venivano dati soldi ad alcuni senatori. Al Fatto raccontano però: risulta che nel periodo in cui ha prelevato i fondi del gruppo con l'autorizzazione di Stiffoni, la segretaria signora Privitera ha acquistato una casa a Roma, un appartamento in zona Aurelia per 275.000 euro e contestualmente assume l'onere di un mutuo per 160.000 euro dalla BNL. E vabbè, sempre le case, eh? C'entrano sempre le case. C'entrano anche, questo sempre dal Fatto Quotidiano, leggo nell'articolo di Lucio Musolino e Davide Vecchia, pagina 3, almeno si fa adombrare l'idea, almeno nel titolo, c'entra anche un po' il sesso. E la Lega stipendiò una massaggiatrice di Chiavari, che anche l'onomatopeica racconta un po' tutto, la massaggiatrice di Chiavari. Questo per il Fatto Quotidiano. In tutto questo la politica è alle prese con che cosa? Intanto la formazione delle liste, sono i giorni decisivi per le formazioni delle liste, quindi entreranno un po' i nomi i nomi, quelli magari più scontati, quelli già che si leggono sui giornali, e anche le sorprese, che ne so, per esempio ieri Bersani ha candidato l'ex direttore generale di Confindustria Galli, oppure Ingroia ha candidato Ilaria Cucchi, la sorella del ragazzo morto in carcere dopo l'arresto in carcere. E c'è un appello del presidente di Confindustria Squinzi oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo è "Una politica industriale per un paese nuovo". Scrive Squinzi che chi governerà il nostro paese avrà il dovere di affrontare i nodi della crescita, porre le basi per consentirci di competere ad armi pari su mercati globali. Per questo è imprescindibile rimettere l'industria al centro dell'agenda del paese. Per questo sono essenziali profonde riforme strutturali, a partire da una seria revisione del titolo quinto della Costituzione per mettere in discussione gli assetti istituzionali, lo stesso perimetro dello Stato, e ci conducano a un decentramento finalmente responsabile. Per questo sarà possibile, per questa via, un taglio deciso della spesa non lineare e quindi una graduale riduzione della pressione fiscale. In realtà di programmi, come sempre, per il momento se ne legge poco, almeno sui giornali. Ci sono i programmi, perché ogni partito, ogni coalizione ha il suo programma, ma per il momento si legge poco. Quello che si legge sono sempre i soliti ribaltoni, riposizionamenti, nomi, le liste, eccetera. Ma delle cose concrete per il momento si vede all'orizzonte pochino, ecco, non, magari non poco, ma pochino sui giornali. Interessante però il sondaggio che oggi sul Sole 24 Ore viene fatto da Ipsos e commentato da Roberto Dalimonte, uno dei massimi esperti di elezioni, di numeri, in fatto di politica quando si va a votare. Ebbene, in questo sondaggio della Ipsos per il Sole 24 Ore, dopo l'alleanza PDL e Lega, sondaggio sul Senato che sarà decisivo, su Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia, 5 regioni chiave, Bersani e Berlusconi vengono dati in sostanziale possibile parità al Senato, soprattutto in Lombardia e in Campania, ma anche in Sicilia. Questo, secondo Dalimonte, con una sostanziale esito del voto assolutamente imprevedibile per il Senato in Lombardia, Campania e Sicilia, con una sostanziale parità tra una coalizione dalla parte PD e SEL e quella guidata da Berlusconi, sta di fatto che porta a una situazione all'esito della competizione al Senato del tutto incerta. Il centrosinistra avrà la maggioranza relativa dei seggi, ma il raggiungimento della maggioranza assoluta non è affatto scontato. Ecco la possibile fotografia del cosiddetto profilato pareggio, comunque impossibilità di avere una maggioranza consolidata e forte al Senato. Come detto, è giorno anche di liste, rientra candidato anche Scajola, che esulta dopo l'archiviazione dell'inchiesta dopo 2 anni sulla mancata gara di appalto al porto turistico di Imperia. E in un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Virginia Piccolillo, a pagina 6 del Corriere, dice: "Ho fatto un check-up giudiziario. Ora sono pronto a tornare in campo. L'importante", esordisce così in questa intervista Scajola, "è che non sono morto. Quando ti arriva un'accusa di associazione a delinquere, un infarto può anche venire. Ma sono qua, pronto a candidarmi". Eccolo qui, capita a Fagiolo l'archiviazione dell'inchiesta. "Sto un po' meglio, sono soddisfatto. Ho fatto quello che considero un check-up giudiziario, come aver fatto un vaccino. In un'indagine nella quale hanno scandagliato anche i conti di mia mamma, che ha 97 anni, non hanno trovato niente. E quindi in campagna elettorale che fa? Sono pronto a candidarmi. Claudio Scajola". Intanto Vendola, l'avete sentito, l'abbiamo fatto sentire anche alle 6.30, tuona contro i super ricchi alla Gérard Depardieu: "Vadano all'inferno". Rientriamo da qui dopo il traffico. E allora, forse ricordate la campagna "Anche i ricchi piangano", no? Di qualche tempo fa, quando Rifondazione, nel 2007 per la verità, era qualche anno fa. Ma insomma, Vendola che dice: "Depardieu vada all'inferno". è insopportabile, no? Questa scelta di Depardieu, che prima ha detto non voglio dare alla Francia il 75% delle tasse perché guadagno oltre 1 milione di euro, ha restituito il passaporto, poi è andato anche da Putin ad abbracciare Putin per ottenere il passaporto. Insomma, questo tema ha suscitato questa considerazione, avendola, per la verità, anche Bersani, ieri ospite da Gruber, ha detto ma no, è una battuta, però insomma il tema della demonizzazione della ricchezza, oggi sia Pierluigi Battista in un commento sul Corriere della Sera pagina 11, la sinistra radicale, l'eterna tentazione del pauperismo, il giornale addirittura lo mette in prima pagina, Vendola, l'alleato di Bersani, i ricchi vadano al diavolo, e c'è il commento di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, in prima pagina, a dire se vincerà le elezioni la prima cosa che farà sarà mandare i ricchi al diavolo. E scrive Sallusti: noi siamo per difendere la ricchezza legittima, poca o tanta che sia, è indice di bravura, capacità di sacrificio, in poche parole è il termometro della meritocrazia da tutti evocata ma da pochi perseguita. L'Italia ha bisogno di trattenere, semmai attirare ricchezza. Ma insomma, questo tema del vadano all'inferno, c'è da dire che Il Giorno fa una pagina nella quale dice, beh, però nell'articolo di Silvia Mastrantonio, dati alla mano, andiamo a vedere in concreto, c'è un dato secondo Il Giorno che in qualche modo sostiene la tesi di Vendola, non che debbano andare all'inferno i ricchi, ma che dai super ricchi in Italia almeno non si è ottenuto molto. Qual è il dato secondo Il Giorno? È il fatto che il gettito ottenuto dal cosiddetto contributo di solidarietà, ricordate il 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente di 300.000 euro, secondo i dati del bollettino del Ministero dell'Economia, ha portato nel periodo gennaio-novembre 2012 259 milioni di euro, questo è il gettito, e da qui Il Giorno dice il fisco dà ragione a Nichi, solo 259 milioni di euro dalla tassa sui ricchi, questo è un giudizio del Giorno. A proposito di soldi, ricordate che Mario Monti 2 giorni fa ha detto, alla domanda esplicita, quanto ha pagato di IMU? Non lo so, se ne occupa mia moglie. Ieri ai nostri microfoni Renato Brunetta ha detto, ha tuonato, io ho pagato 10.000 euro, e lo dica anche Mario Monti. Ebbene, Repubblica è andata a fare i conti in tasca a Mario Monti. Volete sapere quanto ha pagato di IMU il Presidente del Consiglio? Peter Vescapetulo, vuoi sapere quanto ha pagato di IMU il Presidente del Consiglio? Alberto D'Argenio a pagina 13: sono 27 gli immobili, contando anche contando anche le pertinenze. 27 immobili, la metà di un altro appartamento a Milano, quello di Bruxelles, 9 unità abitative, un negozio a Varese, insomma fa un totale di 27 immobili, tutto dichiarato in maniera trasparente, ed eccolo il calcolo, sono 26.353 euro di IMU, una bella somma, anche se, scrive Repubblica, non si pretende di spaccare il centesimo, visto che per farlo servirebbero alcuni dati non rinvenibili in rete. Fatto sta che ai tempi dell'ICI il saldo era stato di 6.377 euro, quindi ha pagato, accidenti, circa 20.000 euro in più rispetto all'ICI. Ma non solo, c'è anche l'IMU della signora Monti, Elsa Antonioli. Lei ha pagato 8.590 euro contro i 2.061 che pagava di ICI. Quindi la pertinenza IMU della famiglia Monti, secondo Repubblica, è 26.353 euro per Mario Monti e 8.590 euro per la moglie Elsa, sintomo di svariate proprietà. A proposito di ricchezza o a proposito di soldi, il redditometro, ci sono ancora sul Sole 24 Ore, gli investimenti rischiosi, cosa vuol dire il redditometro? C'è una comparazione di tutti i sistemi, le coppie con 2 figli, la famiglia con 4 figli, tutto quello che sono le spese da tenere, da controllare, su quello che riguarda il nuovo strumento, il redditometro con cui dovremo fare i conti. E c'è su questo una vera e propria disfida in punta di penna sul Corriere della Sera tra il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, che ha scritto una puntuta lettera lunghissima, tra l'altro a pagina 13 del Corriere, prendendo spunto da un articolo molto urticante, giudicato urticante da Befera, di Piero Stellino, che ha paragonato l'Agenzia delle Entrate o comunque l'Italia a uno stato di polizia fiscale. Befera scrive: perché non siamo uno stato di polizia fiscale? Usa dei termini molto molto duri. Scrive per esempio a un certo punto: detto ciò, è indubbio, come affermava Stalin, che la carta sopporta tutto, sicché Ostellino è pienamente libero nel suo articolo di apparentare me e i miei collaboratori agli agenti dell'Ovra o della Stasi, ma già che c'era non avrebbe dovuto omettere di tirare in ballo anche la Gestapo nazista o la GPU sovietica, giusto per rimarcare la sconcezza del decreto che avremmo fatto firmare al ministro Grilli. Per quanto riguarda infine il collegamento che Ostellino fa tra noi dell'agenzia e il personaggio del dottor Stranamore, sorvolerei. Piero Stellino è una mente lucida del pensiero liberale, dovrà quindi pur esservi un nesso casuale tra il redditometro e la guerra termonucleare, anche se io faccio fatica a coglierlo. Insomma, questi toni molto molto irritati di Attilio Befera, al quale risponde non Ostellino, come generalmente succede quando un autore di un articolo c'è una replica, risponde l'autore dell'articolo. No, risponde invece il direttore in persona, Ferruccio De Bortoli, in poche righe. Scrive: caro Befera, il Corriere e Ostellino rispettano il suo lavoro. Lei è stato difeso da questo giornale in più di un'occasione. Le critiche, anche dure, in democrazia sono legittime. Se il tasso di suscettibilità che traspare dalla sua lunga lettera è misura della serenità e dell'equilibrio con cui l'agenzia che autorevolmente presiede opera sul territorio e dialoga con i contribuenti, c'è di che preoccuparsi. E dunque un Ferruccio De Bortoli che risponde per le rime, insomma, sottolineando questa mancata serenità nel tono usato da Befera, che si rivolge al Corriere della Sera. A proposito di soldi e tasse, ragazzi, se siete affittuari, leggete la prima pagina del Sole 24 Ore, poi pagina 2 e poi fate un tranquillo respiro e affrontate la giornata come se fosse una giornata normale, perché nelle case, nelle casse del fisco rimane il 60% dell'affitto, finisce in tasse, questa è la media, il 60% degli affitti. Pagina 2 del Sole, Saverio Fossati e Gianni Trovati: anche se si arriva al 75% in casi come Genova, perché poi ci sono ovviamente le addizionali, i registri, oltre all'IMU e l'IRPEF, con ovviamente le tariffe scelte dai comuni. Nei migliori dei casi la pressione è comunque attorno al 50%, la media è del 60%, casi estremi come Genova, 75% dell'affitto se ne vanno in tasse. Questo è... Ci sarebbe ancora molto da dire, sia della politica, dell'economia. Voglio chiudere con una notizia, però, che è una notizia del giorno, forse rischia di diventare anche la notizia dell'anno, già, anche se siamo appena all'8 gennaio. Ne parlano tutti i giornali, l'Unità lo fa mettendo insieme due storie simili che accomunano Cina e Stati Uniti: sciopero da una parte e un giornalista nel mirino negli Stati Uniti. Lo sciopero in Cina, questa è la notizia del giorno, di alcuni giornalisti di un settimanale del sud, lo leggo in italiano, non mi azzardo nella pronuncia cinese, sciopero dei giornalisti contro la censura del partito. Hanno ingaggiato un coraggioso braccio di ferro contro la burocrazia del partito in nome del diritto a informare correttamente i cittadini in un paese dove la censura è ancora forte, racconta Gabriel Bertinetto. In Cina molti giornalisti stanno scioperando di questo settimanale del sud contro il partito, contro la censura in Cina. Storia accomunata: c'è un giornalista negli Stati Uniti, autore di un articolo sul Journal News, che da due settimane è minacciato di morte da 33.000 persone perché ha pubblicato l'elenco di tutte le persone in America che hanno il porto d'armi e hanno delle armi in casa, quelle che è riuscita a reperire. Per questo, soprattutto dopo l'ultima strage nella scuola, è minacciato da due settimane a morte. Giornale statunitense nel mirino per la mappa delle armi. Trovate queste due storie sull'Unità a pagina 12, giornale radio.